È lunedì 6 maggio, i titoli, il Sole 24 Ore, l'edizione del lunedì, fisco riapre il cantiere riscossione, per il Corriere della Sera niente tagli a cultura e ricerca, la promessa di Letta, altrimenti mi dimetto. Repubblica, IMU sospesa, giù le tasse sul lavoro, così il Messaggero, Letta via l'IMU e la legge elettorale. Per il Giornale, stop ai tassatori. Letta, giù le tasse sul lavoro e anche l'apertura della Stampa. Queste alcune delle aperture. L'Unità invece, lo stop di Letta Berlusconi, l'IMU non è cosa tua. Siamo sempre lì. L'IMU, cari italiani, non abbiamo fatto un millimetro in avanti dagli scorsi giorni. Voglio però partire da che cosa? Ci sono tanti articoli che trovate sui giornali oggi, perché è scomparsa ieri la vedova di Paolo Borsellino, Agnese Borsellino. E tutti i giornali dedicano pagine sulla vita per tanti anni silenziosa, soprattutto dopo la strage di Via D'Amelio, della vedova di Paolo Borsellino. Addio Agnese Borsellino, l'ultima intervista, le trattative furono due, così ricorda per esempio Felice Cavallaro sul Corriere della Sera. Resteranno di questa gran donna che chiese di essere ascoltata dalla commissione antimafia presieduta da Giuseppe Pisanu le sferzanti battute rivolte contro l'ex procuratore di Palermo Gianmanco, contro il generale dei carabinieri Subranni, contro l'ex ministro Nicola Mancino, come confidò un giorno al Corriere davanti a funzionari e amici devoti, compreso Fabio Granata, allora esponente della commissione antimafia. Disse allora Agnese Borsellino: io ho centellinato le mie parole in questi anni, attendevo il momento opportuno. Un riferimento alle rivelazioni rilasciate alla procura di Caltanissetta, che sta indagando il nuovo sulla strage di Via D'Amelio. Sono tanti ricordi, parla ed è una rarità anche uno dei figli di Paolo Borsellino, Manfredi Borsellino, lo fa con La Stampa, pagina 17, intervistato da Riccardo Arena. Ora incontrerà papà e saprà com'è andata. Il figlio dice: senza di lei mio padre non sarebbe stato Borsellino. Tra l'altro ricorda Riccardo Arena che proprio i figli, una strana famiglia i Borsellino, una famiglia particolare, molto schierati i fratelli del giudice, Rita, Salvatore, mentre i figli Lucia, Manfredi e Fiammetta sono rimasti sempre su posizioni di grande equilibrio. E dice oggi Manfredi Borsellino, figlio di Paolo e Agnese: mia mamma era riservata ma popolarissima, era nato addirittura un gruppo su Facebook, era sorto dopo le deliranti dichiarazioni recenti del generale Subranni, dichiarazioni che ebbero l'effetto di guadagnare solo stima e ulteriori manifestazioni di affetto nei confronti di mia madre, quelle, cioè le battute sull'Alzheimer che avrebbe indotto mia madre a testimoniare contro lo stesso generale. Lei non sapeva maneggiare Facebook, ma voleva che le leggessimo tutti i messaggi che le arrivavano. Alcuni le auguravano semplicemente buonanotte, chi le dava al buongiorno, a noi sembrava inverosimile, eppure era così, e lei voleva che rispondessimo a tutti. Insomma, racconta Manfredi Borsellino. Anche l'Unità racconta in una pagina: morta Agnese Borsellino, cercò sempre la verità. C'è anche un racconto di Gian Maria Monti che dice: quando mi raccontò mi hanno distrutto la vita. L'ultima volta che la incontrai, sono tanti le persone che ricordano oggi uno degli ultimi incontri con questa donna che è sempre stata molto riservata, disse Agnese Borsellino: via D'Amelio mi ha distrutto la vita, a me non resta che piangere anche dopo 20 anni. Un mese prima di morire mi chiamò il presidente della Repubblica Cossiga e mi disse: la storia di via D'Amelio è da colpo di Stato. Poi chiuse il telefono senza dirmi altro. Adesso il telefono voglio dimenticarlo, non ho voglia di parlare, io sono uno straccio. Mio marito è volato via come uno straccio, così sto volando via. Piango, anche se di lacrime ne ho versate tante. Mi vergogno di essere cittadina italiana. Così alcune delle parole che oggi l'Unità ricorda di Agnese Borsellino, che ieri è scomparsa. I funerali saranno domani a Palermo. Vabbè, è già tempo di pubblicità e allora rientriamo tra 5 minuti per parlare sempre di politica, di IMU, sempre questa famigerata IMU alla quale è appesa la sorte del governo, questa sentire almeno dire Berlusconi, ma poi c'è la polemica ancora con il ministro Chieng che ha detto una legge sullo ius soli per la cittadinanza degli italiani e tante altre notizie dai giornali di oggi. Allora, tutto il dibattito è concentrato ancora una volta sull'IMU, Ieri Enrico Letta, premier, è andato da Fabio Fazio a parlare per la sua prima intervista, ha parlato di varie cose, tra le quali mi dimetto se ci sono i tagli alla cultura e alla scuola. E poi sull'IMU, l'IMU non è una battaglia di Berlusconi, il suo superamento faceva parte dei programmi di tutti e tre i partiti politici che sostengono il governo, vanno discussi i dettagli. Ribadito, faremo un decreto per sospendere la rata di giugno che non verrà pagata e consentirà nelle prossime settimane di mettere in campo un processo di riforma. Poi ha parlato di emergenza lavoro, bisogna abbassare le tasse sul lavoro per i neoassunti, mi batterò per questo in Europa e in Italia, il lavoro ai giovani è la priorità, ha ribadito Enrico Letta. Tra le priorità ha messo anche la riforma della legge elettorale, cari ascoltatori, è partito il conteggio ufficiale sul mio profilo Twitter, Alino Milan, siamo ripartiti e dunque è la prima settimana decisiva, perché ha detto va cambiata subito Enrico Letta, è la prima settimana decisiva, quella che inizia oggi, per la riforma elettorale, è anche la prima settimana decisiva per l'abolizione delle province e dunque terremo il conto a partire da questa settimana. La scorsa, come detto, l'avevamo abbonata perché c'è stato la fiducia martedì, poi il 1° maggio, il ponte, eccetera. Voilà, dai, partiamo da questa settimana, così diamo anche agio a recuperare qualche giorno e non siamo troppo severi. Come detto, l'IMU è la questione che tiene ancora banco. Come racconta il giornale, ieri Berlusconi, ancora il pressing su Letta, via l'IMU o togliamo la fiducia. Questo a pagina 3. Del giornale, anche se il ministro Graziano Del Rio, ministro degli affari regionali, fa un'intervista sulla stampa, Alessandro Barbera lo intervista a pagina 2, e sull'IMU ormai è il tema dominante che domina la politica, anche se, ripeto, si tratta di 4 miliardi di pagamento della prima casa in un paese in cui la spesa pubblica è di 800 miliardi, quindi bruscolini, e però da giorni la politica si sta arrabattando su questo. Inizia l'intervista: sì, sto preparando il barbecue per i miei figli, ne ha 9 Del Rio, ricordiamolo, ma ho un braccio libero, mi dica. E insomma fa questa intervista: non credo sia possibile. Sulla domanda sull'IMU, i grillini la pensano come voi. Il capogruppo Crimi dice che non si può esentare chiunque dal pagamento della tassa sulla prima casa. Insomma, si inaugurano le maggioranze variabili. Non credo sia possibile, risponde Del Rio, che riguardo all'IMU dice: i comuni devono avere immediatamente la compensazione per i mancati introiti della prima rata. Attuata la sospensione, dovremo prenderci tutto il tempo necessario per fare la riforma. C'è tempo fino alla legge di stabilità di settembre, se necessario. Martedì ne parlerò a quattro occhi col premier. Le soluzioni sono molte. Una delle soluzioni, scrive Barbera, è quella di sostituire IMU e TARSU con un'unica tassa sui servizi. E sulla base della sua esperienza di sindaco, è possibile? Sì, ma con un ma, risponde Del Rio. Un'imposta unica sui servizi indivisibili è possibile. Per capirci, parte dell'imposta sui rifiuti, esattamente come l'IMU, la si paga in base ai metri quadri di ciascun proprietario, ma c'è un'altra parte di quella tassa che andrebbe pagata in base al numero di membri familiari e quantità di rifiuti consumati. Insomma, è tutto allo studio e chissà che succederà. In un retroscena interessante che vi segnalo sul Corriere della Sera, firma Monica Guerzoni, lo trovate a pagina 3, c'è il rapporto tra il premier e Berlusconi, tra noi patto molto chiaro, cioè al di là delle dichiarazioni di facciata e di un fondale pieno di scogli, usa questa immagine Monica Guerzoni per raccontare qual è il momento del governo attuale. Enrico Letta, che oggi parte per la Spagna per incontrare il premier spagnolo Rajoy, dice: non penso che Berlusconi possa fare gesti unilaterali, perché dovrebbe modificare il profilo responsabile istituzionale che si è costruito. E dall'altra parte la sensazione di Berlusconi è questa: io sono assolutamente filo governativo, il ragionamento che il Corriere attribuisce a Berlusconi. Ho vinto su tutta la linea, volevo Napolitano ed è stato rieletto, chiedevo le larghe intese, abbiamo avuto la grande coalizione, perché mai dovrei spegnere le luci di Palazzo Chigi? Se Letta dura e noi nel frattempo riusciamo a costruire un grande rassemblement, è tornata questa parola, di moderati, il centrodestra governerà il paese per i prossimi 20 anni. Ecco, questo, scrive il Corriere, è il timore del PD, uno scenario da incubo, cioè l'idea che Berlusconi tenga le luci accese e tenga il governo delle larghe intese in piedi il tempo necessario per ricompattare il centrodestra e poi far cadere il governo e vincere le elezioni. In ogni caso, come detto, c'è il sì anche del Movimento 5 Stelle sulla questione IMU. Il Corriere lo ricorda, pagina 3, e come è stato chiesto anche a Graziano Del Rio, è un momento importante. I 5 Stelle propendono verso un sì al decreto sulla sospensione dell'IMU, ma deve essere non un sì orizzontale, come ha detto il capogruppo al Senato Crimi, altrimenti favoriremmo chi ha casa e redditi elevati. Invece deve essere garantito a soglie di reddito basso con un limite. Anche per La Stampa, ora i grillini tentano il PD con le maggioranze variabili. Anche se Graziano Del Rio dice non è questa l'ipotesi, ma questo sì dei grillini certamente apre lo scenario a queste possibili intese di maggioranze variabili. Ugo Magri sulla Stampa, pagina 3, l'abile mossa tattica dei grillini, che delle due l'una: o non sono così primitivi come qualcuno li dipinge, oppure hanno imparato le malizie della politica. Il capogruppo Crimi promette un sì alla cancellazione dell'IMU sulla prima casa, che corrisponde al punto 17 del programma 5 Stelle, e fin qui nulla di strano. Nello stesso tempo modula l'offerta in modo tale da dividere il PD, o almeno provarci, e stringere nell'angolo Berlusconi. Mette cioè come condizione che dall'IMU vengano esentate solo ed esclusivamente le fasce di reddito più basse, laddove chi se lo può permettere dovrebbe comunque pagarle, continuare a pagarle anche sulla prima casa. Ecco, questa mossa che rischia di spiazzare Berlusconi, metterlo all'angolo, e rischia di spiazzare il PD su accettare oppure no. Tra l'altro, sull'IMU c'è un'interessante pagina anche a firma Rosaria Amato su Repubblica, che riguarda l'IMU delle imprese. IMU raddoppiata su capannoni e negozi, e quindi le imprese sono in rivolta. Siamo noi i veri tartassati, secondo i calcoli della Confederazione dell'Artigianato. Dal titolo "Così l'IMU uccide le piccole imprese", se per un piccolo capannone industriale i rincari medi sono intorno al 77%, per un ufficio a Milano si può arrivare addirittura a rincari al 240%, comunque non si va mai sotto il 100% di rincaro, dunque di raddoppio. Ed ecco allora le imprese che dicono: i veri tartassati siamo noi, piccoli e medi imprenditori, con beni strumentali che hanno aumenti tra il 100 e il 200% legati all'IMU. Vabbè, l'altra polemica è legata a queste dichiarazioni del ministro all'integrazione Cécile Kyenge, che ieri ha detto, ha ribadito lo ius soli. La cittadinanza per gli stranieri, cittadinanza italiana se si nasce in Italia, se i figli di stranieri nascono in Italia, il diritto è legato al suolo, al territorio, non allo ius sanguinis, come è la legge attuale in vigore, cioè la legge del sangue, per cui bisogna avere una trafila più lunga per ottenere la cittadinanza. Il PDL contro Kyenge, come si chiama? Noi l'abbiamo invitata più volte, magari glielo chiediamo direttamente. Scoppia il caso esternazioni, sarebbe anche un premier Enrico Letta un po' infastidito dalle tante interviste che i ministri hanno fatto, tra cui anche il ministro Kyenge. E c'è le polemiche con Elvira Savino del Popolo della Libertà, ma sapete cosa ha detto? Dopo il DDL sullo ius soli, il ministro intende presentarne uno sulla poligamia praticata dalla sua famiglia in Congo. Vabbè, tutto buttato già in polemica e quasi burletta. Magdi Cristiano Allam in prima pagina del Giornale: la ministra non tutta italiana, si è presentata così, sono italo-congolese, tengo a sottolinearlo perché appartengo a due culture. Dunque, scrive Magdi Cristiano Allam, per la prima volta nella storia della Repubblica viene designato un ministro che non si sente del tutto italiano. Quindi io formalmente chiedo che venga licenziata, insomma, che si dimetta il ministro Cécile Kyenge. C'è il ministro, ex ministro Riccardi, che è intervistato da Vladimiro Polchi su Repubblica, introduce un terzo argomento: ius soli, ius sanguinis, io prevedo lo ius culture, ossia la cittadinanza concessa ai nati in Italia solo dopo aver concluso un ciclo scolastico. Con questo dibattito impostato così all'italiana, come al solito, non se ne farà quasi nulla. Intanto il ministro Kyenge ha chiesto che Balotelli diventi testimonial di questa campagna. Balotelli ha già detto di sì. C'è un piccolo particolare, come ha detto lo stesso ministro, che la questione dello ius soli, ius sanguinis, ius culture, quello che volete, non dipende dal ministero del ministro Kyenge, ma dal ministro dell'interno. Vabbè, polemiche all'italiana, ma il tema c'è tutto, non è escluso che domani ne parleremo anche noi. Dopo il traffico invece l'altra polemica legata a Micaela Biancofiore. Che dire, Micaela Biancofiore, questa polemica legata al sottosegretario che è stata messa alle pari opportunità, poi le sue dichiarazioni sui gay, ed è stata spostata alla pubblica amministrazione. Quindi adesso, quando ne dirà un'altra, diventerà vicepresidente del Consiglio. La prossima che dice presidente del Consiglio, no, battuta, sarà più importante la pubblica amministrazione, un nodo centrale rispetto alle pari opportunità. Ebbene, è stata spostata alla pubblica amministrazione. Mani sul volante, perché la Biancofiore parla in un'intervista al Corriere della Sera, e il clou è una sola frase, basta solo questa per assumere l'intervista di Fabrizio Roncone a pagina 7 del Corriere: le mie posizioni sono uguali a quelle del Papa. La Biancofiore si paragona al Papa e dice: guardi, sa qual è la verità? Certe mie posizioni personali sono uguali a quelle di Papa Francesco, solo che poi da lui vanno e giustamente si genuflettono, mentre con me, avete capito, la umile Biancofiore, insomma, lei ha le stesse opinioni del Papa su alcune, solo che dal Papa, mistero dei misteri, tutti vanno e si genuflettono e massima riverenza, e invece Micaela Biancofiore non ha la stessa considerazione, non gode della stessa considerazione del pontefice. Tu guarda gli strani casi della vita, le ingiustizie anche della vita. Si litiga anche sulle convenzioni, sulla convenzione, ci sarà questa, poi ci sarà questa convenzione, tanto che Quagliariello dice a Repubblica, il ministro delle riforme, ma questa convenzione, la convenzione non va bene, e può anche saltare, non impicchiamoci a un simbolo. Sta di fatto che si litiga sulla presidenza della commissione e della convenzione, si litiga anche sulla presidenza delle commissioni. Le polemiche sono le ultime, le prossime poltrone da assegnare. Intanto registro per quel che riguarda il lavoro, è una notizia che viene data dal Quotidiano Nazionale. Elsa Fornero, ex ministra del lavoro, ha scritto ai familiari di un signore che si è suicidato per la crisi, così hanno raccontato i giornali. Suicidi per la crisi, la Fornero ai parenti: il vostro dolore è stato manipolato. È successo a Civitanova, dove il signor Romeo Dionisi si era ucciso insieme alla moglie Anna Maria Sopranzi, e poi invece il cognato di questi, Giuseppe, si era buttato a mare lasciandosi morire dopo aver saputo della tragedia. Dunque una tragedia che aveva colpito tre persone il 5 aprile, triplice suicidio a Civitanova, Marche. Ebbene, Elsa Fornero ha scritto a uno dei familiari della vittima dicendo: sono vicina al vostro dolore che è stato usato, manipolato e strumentalizzato. Sono certa che se avessi l'occasione di poterle parlare da vicino, ha scritto a Gianna Dionisi, lei sarebbe in grado di vedere nei miei occhi e sentire nella mia voce la sincerità delle mie parole. Non so se ne avremo la possibilità. Risponde la sorella appunto della vittima al Giorno: no, non avrò questa possibilità perché non ho intenzione di incontrarla. Per la verità, dice, mio fratello aspettava una pensione, l'aspettava con tutta forza, ma la riforma che spostò l'anno della pensione lo fece sprofondare nel baratro, allontanando il traguardo della pensione che stava inseguendo con tutte le sue forze. D'altra parte, Gianna Dionisi racconta: io accetto questa lettera, per certi versi ammiro il fatto che l'ex ministra abbia deciso di scrivermi, peraltro senza clamore, ma ripeto, non ho alcuna voglia di incontrarla. Insomma, questo succede col ministro Fornero che scrive ai parenti delle vittime. C'è da raccontare ancora intanto del Movimento 5 Stelle. Noi parleremo di stipendi e di paghe. Ebbene, il Movimento 5 Stelle ha deciso, votando ieri i deputati, che, come racconta Annalisa Cuzzocrea a pagina 4 di Repubblica, disobbediscono. Per la prima volta dicono no a una direttiva arrivata nero su bianco la settimana scorsa da Beppe Grillo e Casaleggio, perché nel weekend, partecipando a un sondaggio per capire come comportarsi con le parti accessorie dello stipendio, il Movimento 5 Stelle hanno detto vogliono tutta la diaria, almeno sarà volontaria la decisione di restituirla. Allora, l'indennità di mandato, che è circa 5.000 euro, 10.000 euro lordi, sarà dimezzata. I parlamentari del Movimento 5 Stelle terranno metà, ma cosa fare di tutto il resto, cioè diaria, spese per collaboratori, attività politica, rimborsi taxi e telefono? La maggioranza dice tenerselo, rendicontare tutto, restituire l'eccedente solo su base volontaria. Per Repubblica è un primo, in qualche modo, tentativo di ribellione, se vogliamo, Beppe Grillo. Comunque, di stipendi, anche di stipendi della cosiddetta casta, ne parleremo dalle 8:15. Voglio chiudere con lo sport e la Gazzetta dello Sport. È doveroso, è giusto. Quando una squadra domina tutto l'anno, vince il campionato, è bene essere sportivi e fare i complimenti per la vittoria dello scudetto. Non c'è dubbio, è andata così, ha vinto anche quest'anno la squadra migliore, il campo ha sentenziato, e dunque complimenti, complimenti, complimenti vivissimi per lo scudetto alla Steaua di Bucarest, che ieri ha vinto il campionato in Romania e dopo 7 anni senza successi è tornata alla vittoria. Dunque complimenti, scudetto rumeno alla Steaua di Bucarest, che io ricordo sempre con piacere dopo la famosa finale di Coppa dei Campioni Milan-Steaua 4-0, 2 gol Gullit, 2 gol Van Basten nel 1989. Comunque complimenti, davvero è stata la migliore quest'anno. Steaua di Bucarest, giornale radio.